intelligenza, desiderio di approfondire, passione per il paese, senso di responsabilità, che non uno che si è compromesso. In dopoguerra sono i giovani che hanno poi governato il paese per molti anni, erano tutti ragazzini. Erano ragazzini e hanno rifatto l'Italia. Hanno rifatto l'Italia, quindi io tra i due preferisco i giovani. Mario, un'analisi lucidissima e spietata quella di Guarini. È uno dei pochi che si è studiato i trattati. Li ha studiati veramente. Sì, poi sul piano giuridico non fa una piega il suo discorso. Poi qualcuno potrebbe trasformarlo dire, in politica è complicato. Ecco, qualcuno è complicato, direbbe, però ma la realtà è un argomento diverso. Forte. La ma realtà secondo me è diversa, però l'analisi delle conseguenze del non ripartire dal Maastricht vero sono anche altrettanto. Vedi, Guarino ha trovato il gancio giusto, cioè il chiodo per appendere il quadro. Esattamente, come ha trovato il chiodo per appendere ed il quadro. Ed è l'unica cosa sulla quale i tedeschi sono deboli, cioè non possono rispondere. Non possono rispondere perché sono loro che hanno fatto la frittata. Essendo stati anche loro principi del diritto, i tedeschi, se tu li attacchi sul piano del diritto, lì cascano. Non possono dire. Non è vero, sotto questo piano è tutto vero. Se invece la butti in politica, cambia tutto e infatti si è visto. E infatti si vede, è quello che non bisognerebbe fare. Esatto. Pietrangelo, una battuta anche tu? Una valutazione? Una battuta? L'impressione battuta che però hai avuto. Potrebbe essere che la frittata è stata voluta, nel senso che nella logica di quella che è stata l'evoluzione della realtà tedesca. Non dimentichiamo, certo che è stata voluta. Non dimentichiamo che la Germania si riunisce e la riunificazione della Germania è stata voluta giustamente dai tedeschi, fortemente sentita dai popoli europei, ma pagata da tutti. Posso fare la grande battuta di Andreotti, Giovanni? Amo tanto la Germania che ne voglio vedere due. Controlla la rotta e si scruta l'orizzonte. C'è in tutti l'ansia di arrivare al più presto sul nemico. Le unità avversarie sono in vista. Non c'è dubbio, è una grossa formazione navale nemica. Gli inglesi non si avvedono ancora della minaccia che incombe. Incuranti del furioso tiro contro aereo scatenatosi dalle navi, i nostri bombardieri continuano a sganciare un dopo l'altro. Erano pezzi della radio del periodo fascista, questa radio così importante in Italia a un certo punto venne disturbata sistematicamente da Luigi Polano, un signore che per conto di Togliatti aveva il compito da luoghi segreti di intervenire per smentire, puntualizzare, attaccare quello che la radio diffondeva. Ecco, Vindice Lecis, giornalista, scrittore, buongiorno, lei ha scritto un libro, La voce della verità, storia di Polano, il comunista che beffò Mussolini. Con quali strumenti Polano riuscì a inserirsi nelle trasmissioni AIR di propaganda fascista? Grazie, buongiorno dottor Minori, buongiorno agli ascoltatori. Sì, effettivamente questo è uno dei tanti misteri della vita di questo rivoluzionario di professione, questo comunista degli anni di ferro, e effettivamente ci sono alcuni punti, diciamo, d'ombra che nel libro cerco di dipanare in modo romanzato, ma molto realistico. E qual è i punti d'ombra più importanti, quali sono? Certo. Il punto d'ombra più importante è il luogo di trasmissione, esatto, perché nel settembre del 41 lui si trovava in missione per l'Internazionale Comunista in Estremo Oriente, riceve un telegramma di Togliatti, gli dice rientra immediatamente a Mosca, teniamo conto, ricordiamo che i tedeschi erano alle porte di Mosca, lui arriva dopo un viaggio avventuroso di un paio di giorni in aereo, Togliatti gli dice più o meno queste parole, gli dice tu parlando dovrai andare in un determinato posto, troverai un'apparecchiatura radio ed un tecnico che te ne spiegherà il funzionamento, parlando da quella radio dovrai inserirti nelle trasmissioni propagandistiche della radio fascista e sbugiardarla. Gli chiese se era d'accordo, lui essendo un uomo disciplinato aveva fatto ha obbedito all'ordine. Ma per quanto tempo ha disturbato le trasmissioni di Appellius con le sue critiche antifasciste inserendosi? Dal 6 ottobre del 41, la prima trasmissione alle 20:20, quando Appellius parlava, iniziando o terminando, Dio stramaledica gli inglesi, fino alla liberazione di Roma nel giugno del 44. Ecco, Berlinguer nell'82 andò a trovare Polano, gli chiese di svelare il segreto dello spettro, ecco, da dove venivano effettuate le trasmissioni. Lui però non ha risposto, ha detto che aveva promesso a Togliatti di non dirlo mai a nessuno. È un segreto che non si scoprirà mai? Ma è vero, l'effetto segreto gli è stato chiesto anche da me, insomma, ma da tantissime altre persone della sua città, Sassari, da dove lui trasmettesse, non ha mai voluto rivelare, cambiava discorso, preferiva parlare dei suoi incontri negli anni 20 con Lenin o di alcuni aspetti dell'attività antifascista, tra l'altro con pochissime parole perché era un uomo molto parco di parole. Lui non ha voluto dire. Un altro dei misteri è questo, dottor Minoli, quando Togliatti gli disse andrai in una trasmissione segreta, gli dirò ti metterò a disposizione alcuni tecnici e a quella consegna dovrai sempre mantenere fede. Da dove trasmettesse non si sa, le voci più disparate, da un sommergibile, da un cargo, dalle Alpi. Edoardo D'Onofrio, che era il capo dell'ufficio quadri, forse nella storia del PC di Spriano, dice questo è uno dei tanti, forse l'ultimo mistero del Partito Comunista, perché non si sa assolutamente nulla da questo punto di vista. Io ricostruisco un po' le vicende. Ecco, ma chi è secondo lei il Polano di oggi? Esiste? Dal punto di vista della disciplina, della riservatezza, del rigore, non ce n'è. C'è Mario Secchi che vorrebbe chiederle una cosa. Certo. Eccolo, ciao. Buongiorno, ciao Mario. Ciao. Senti, ma ne hai mai parlato con Cossiga di questa storia? No, con Cossiga no. Che era molto attento alle questioni eccetera. Questa notizia, Mario, se posso così ricordarla, sì. Lui ha fatto le trasmissioni sino alla liberazione di Roma, poi è tornato in Italia ed è diventato un normale dirigente comunista, è stato deputato per 3 legislature e senatore per una, però solo l'Unità svelò nel 67 che la voce della verità, lo spettro radiofonico, era in realtà un normalissimo comunista italiano che si chiamava Luigi Polano di Sassari. Fantastico. ma il suo romanzo diciamo si basa su una ricerca di fonti precise, è romanzato, sì. Ma insomma è vero, è stato difficile recuperare i documenti. I documenti sono legati molto alla sua attività precedente alla radio e sull'attività della radio ci sono una serie di ritagli di stampa, di saggi, anche se sono accennati, sulle quali poi ho ricostruito tutta una serie di dati. Ecco, però il grosso anche del romanzo, a parte naturalmente la voce della verità, è una straordinaria attività di Primula Rossa, pieno di alias, certo. E pieno di soldi dell'Internazionale Comunista. Lui girava a mezzo mondo con tantissimi arresti per organizzare i marittimi, per difendere la Repubblica Spagnola, per portare la linea del PC allora clandestino, insomma un personaggio davvero straordinario. Un'ultimissima cosa, era per questo, prego, che veniva definito lo spettro, perché era introvabile? Lo spettro l'aveva definito appunto il giornalista aretino Mario Apelius, che furibondo per queste interruzioni e per contraddittori dove lui veniva addirittura sconfitto, lo chiamava lo spettro in modo per dileggiarlo, ecco. Mix 24. Sea and sand, waters and shells, the golden frame of your hair. Eyes reflecting eyes, flickering shadows of love's design. Waves floating on waves, the thought of you, symmetric depth in the morning. Settimana romantica sulla metropolitana. L'ultima settimana, sottolineerei. È stato che in metropolitana oggi mi si è seduto accanto un cigno nero per la precisione. E questo cigno nero, che era velato proprio di malinconia, ma spiegato il senso di questa canzone. È il mare spiegato da Nicola Conte, un jazzista di Bari, e siccome questo brano viaggia sui tempi della bossa nova, ha avuto un innesto di dolcissima malinconia che colpisce e incide al punto che il cigno nero, fortemente nero, ha saputo perfino sorridere. Io pensavo a un libro. Pensavi a un libro? Sì, sì. Ah, sì, no? Quello di Nassim Nicholas Taleb, io, Il Cigno Nero. Io un film, Il Cigno Nero. Io invece a una ragazza di Casa Pound si chiama Il Cigno Nero. Cigno Nero. C'è una donna per una volta. No, ma è stato fantastico. Quando non gliel'ho chiesto, lui l'ha detto. Esatto. Butta fuoco. Le bolle. Fratello, butta fuoco. È così un po' disintossicato. Senti qua, senti. Io vado al comizio, parlo. Prometto, prometto, prometto. Prometta, prometta. E prometta fogne, strade, ponti. E noi ci pappiamo gli appalti. I gonzi, gli imbecilli, i burini, i fessacchiotti, mi danno i voti. Ecco, ecco, ecco, ecco. E noi tre ci facciamo una bella papara. Speriamo che non sia così, ovviamente, per il futuro, perché per il passato penso che abbiamo già dato come italiani. Un grande Antonio La Trippa era seduto al tavolo e parlava di cose serie, così gli dissero quando dovevano appunto decidere sulle candidature. Ora parliamo un po' di Renzia, di Giovanni, sei d'accordo? Certo. Facciamo un po' di Renzia. Ieri si è riunito un consiglio dei ministri, ha dato le linee guida sulla giustizia, cioè, diciamoci la verità, niente, perché le riforme, come tutti sappiamo, vanno scritte e poi vanno anche approvate, non si annunciano. E d'altronde, però, visti le linee guida, ti devo dire, tutto abbastanza condivisibile, da destra e da sinistra, direi, tutto sommato. E buon senso. È un buon senso, bisogna vedere se si tramuta in azione politica. Quella del Senato di riforma prosegue, ieri ci sono state le votazioni, il patto del Nazareno tiene. Per tradurre, l'accordo tra Renzi e Berlusconi funziona. Ci sono però delle certezze che i nostri ascoltatori conoscono benissimo, sulle quali forse occorre soffermarsi. Da oggi scatta la tassazione del risparmio al 26%, esclusi i titoli di Stato, quindi creazione di un mercato asimmetrico. Secondo me un grosso problema è una vera e propria patrimoniale. I commercianti hanno scoperto che hanno l'obbligo del POS, no? Anche quando non serve, aggiungo, eppure qui, secondo me, insomma, si sta facendo largo la realtà di una pressione fiscale forse in salita, certo. come tra l'altro diceva Banca Italia. Ti ricordi quando si creò il problema con Padoan? Oggi nella sua intervista su Sole 24 ore smentisce la prossima manovra, però correttiva. Però l'intervista di Forché era ben condotta e insomma Padoan ha detto: beh, se il PIL sta così ci sarà un impatto sui conti, puntini. Vedremo che cosa succede, non lo so. Ci sarebbe il capitolo Europa, che è fatto di stile di governo. C'è un pezzo secondo me interessante di Antonio Polito sul Corriere la Sera su questo punto, di risultati concreti che ahimè per ora non ci sono, e anche troppo presto. Anzi, Guarino ci ha fatto un'analisi Guarino stamattina, no? Su quello che potrebbe capitare. Secondo me era molto interessante alla luce appunto delle cose che stanno succedendo. Devo dire, avere la poltrona diciamo di rappresentante degli esteri con la Mogherini a noi non ci cambia niente, perché è una poltrona, è la non poltrona, è lì che si decidono. No, allora cerchiamo la poltrona economica. Certo. Ma quelli tedeschi credo che voglio la dire. Merkel ha messo perfino, mi sembra, il suo capo di gabinetto. A vedere Lady Pesce, che ci cambia la vita. Vediamo i dati sulla disoccupazione in Europa. A Renzi, però, bisogna dire la verità, non ci sono alternative. Sì. Dall'altra parte c'è il deserto, o quasi. Quindi aspettiamo gli eventi e poi giudicheremo. Gaza. Ieri la notizia drammatica. Che reazione hai avuto sulla scoperta dei corpi di tremendo, quei poveri ragazzi? Brutta. Veramente una brutta. Ma Netanyahu sicuramente non la lascerà passare. No. Stanotte hanno colpito 34 obiettivi. Israele dice: risponderemo colpo su colpo. Vediamo un po' se fanno una replica dell'operazione Piombo Fuso, quella che si svolse dalla fine del 2008 ai primi giorni di gennaio del 2009. Secondo me fu sbagliata, perché in realtà sì, è vero, eliminò alcuni target militari, ma Hamas continuò a comandare e ad avere, diciamo, esatto, così, lo scettro. Tutta l'area è in fiamme, è inutile ripetere cose che noi abbiamo detto, che diciamo tutti i giorni. Tutti i giorni. Vabbè. andiamo con la nostra quota rosa. È un sentimento nuovo che mi tiene alta la vita. La passione nella colla, l'eros che si fa parola. Pietrangelo, è per te questa canzone. Danke. Ma il Massimo risponde in tedesco. Comunque, è che a un cantatore. Siete tre iene, cosa volete che vi dica? Vi ricordate, come hai detto tu, che venerdì andiamo in vacanza, per fortuna. Ultima settimana. Io proponevo di andare tutti insieme in vacanza in Sicilia con Stretto Stretto Noi, il pamphlet Buttanissima Sicilia di Pietrangelo. Che esce? Per favore, mi dici tu il titolo in siciliano, che io non rendo da torinese. Buttanissima Sicilia. Ah, come ti viene bene. Lo scrivo io sulla Sardegna e non torno più a casa. Io non ho capito perché non mi avevi detto niente, anche perché ti ho beccato oggi con un articolo sul Corriere della Sera. Diciamo che il messaggio dall'articolo del tuo libro è molto chiaro: commissariare la Sicilia, capire cosa significa la mafia dell'antimafia. Io non vedo l'ora di leggerlo. Però c'è un'altra notizia. Udite, udite, chi ha scritto l'articolo? Aldo Cazzullo! Pietrangelo, ma sei entrato nel giro? Sei nel giro? No, volevo dire nell'Olimpo degli dèi. Oramai è fatta, omologato. Sì, allora, nella giuria del premio Strega, recensito da Cazzullo. Va sulla terza rete, recensito da Cazzullo. Scusa, polemizza con Dario Fo. Ma tu sei di regime? Ma no, la testa lì. Allora, è di regime, basta. Non possiamo più essere amici, Pietrangelo. Aldo Cazzullo. Dopo 20 anni, basta. Danke. Salamini. Carina questa, eh? Te aspettavi, eh? Sta rosso e fa le corna. Vabbè, andiamo ai salamini. Allora, Berlusconi fa la svolta e, dato che mi accusate appunto di essere parte del regime, vi comunico che sto partecipando a un corso di specializzazione per diventare democratico, liberal democratico o, nell'accezione perfetta, un uomo che sta in voga, e quindi io guardo con simpatia. Iscritto, eh? No, non mi sono ancora iscritto perché devo superare l'esame. Stai per iscrivere a? Stai dicendo l'arcigay? Certo. Allora, devo superare un esame, devo saper camminare come su di un filo, poi ci vuole un fil di trucco, poi ci vuole un fil di tacco, insomma un filo che possa finalmente far ondeggiare i pensieri. E allora Berlusconi ormai ha creato tutto sto manicomio in casa sua, per cui la svolta. Dudu è pazza di felicità, vuole andarsene a Casablanca, e quindi quello che andava prima va meglio ancora di più adesso. Per esempio, Giovanni, tu sai cosa è successo a Piazza San Lorenzo in Lucina, dove c'è la sede di Forza Italia arredata con le sue manine? No, proprie. Tutto rosa. Tutto rosa l'arredamento. A parte tutto rosa, cioè prima c'era quell'arredamento voluto da Daniela Santanchè, adesso è cambiato. Hanno sostituito perfino il ritratto di De Gasperi, padre ispiratore della nuova Forza Italia, con uno di Cristiano Malgioglio. Perfetto, dopodiché c'è il rinnovo del linguaggio audio. Alaimo, dica. Ma lei lo sa che a Piazza Politeama la definiscono arruso? Vabbè, la definiscono arruso perché la parola è nata arrusa. Alaimo, dica. Ma lei c'è o non c'è arruso? Io non ci sono mai stato, almeno prima d'ora non ci sono mai stato, e non lo sono tuttora. E quelli che non lo sono tuttora adesso devono rinnovare il linguaggio. Io ne approfitto per rendere omaggio alla memoria di Alfonso, che era un parrucchiere del mio paese, a Leonforte, che quando gli dissero la parola arruso, rispose: mi hai detto barone, mi hai detto. E quindi la svolta del linguaggio, ancora una volta, un accenno di vizietto. A scriversi a Ma tu lo sai, Giovanni, ho intercettato ieri la conversazione di due vecchie volpi di parlamentari, due anziani, erano tutte e due di PDL, Forza Italia, che hanno detto: ma tu ci pensi scoprire a 70 anni che è bello nell'altro modo? Tutto il tempo perso, risponde gli altri, a inseguire quelle femminazze. Nella seconda ora parleremo di un... daremo un tributo, diciamo, a un personaggio indimenticabile, Corrado. Corrado Mantone, una grande voce prima della radio e poi della televisione, e col suo programma La Corrida ha segnato un'epoca. Ce lo racconteranno, come se ce lo racconterà come sempre Marina Milone. Mix 24. Io faccio parte di quella generazione che correva a casa dal liceo, anzi dal ginnasio anche, per riuscire a sentire La Corrida alla radio. Ecco, che strumento suona? Io faccio le pernacchie sotto il braccio. Fa le pernacchie sotto il braccio. Non mi è mai capitato di accompagnare un simile solista. Ecco, allora per me. Veramente, ecco, no. Posso controllare? No, momento, la tonalità. E adesso La Corrida finirà, forse per sempre, forse, chi lo sa. Ed è arrivato il tempo di dare il mio commosso ben servito, ma chi lo sa se poi non me ne pento. Lo so, mi mancherete eppure tanto. E se c'è stato uno scemo del paese, oh, m'ha insegnato, non sapete quanto, a sorridere e a non aver pretese. Ecco, era il commosso saluto che Corrado nel 97 dà agli spettatori prima di abbandonare la scena e la sua storia, come abbiamo detto prima della pubblicità, andrà dopo il telegiornale. Saramino. Ostelli stipati di ragazzi, nude stanze fredde squallide, nell'ora di studiare cambia il verso e arriva la scienza. E al termine di questo lungo e faticoso cammino di studio e di ricerche, a cui ho dedicato gli anni migliori, ho incontrato lui. Lui chi? Lui chi? Il caro leader Matteo Renzi. Corea. Corea. Corea. Perché certo il nostro caro leader è secondo al vero caro leader, che è molto più giovane, molto più rottamatore. Pensate alla fine il che giovane. Fece. Vi ricordate la fine che ha fatto fare allo zio? Brutta fine, è brutta fine. Quelli sono dei rottamatori complicati. Allora, il primo ministro inserisce se stesso nella generazione dei ragazzi che hanno studiato in Europa. Cambia il verso e arriva la generazione Erasmus. Però si viene a scoprire che lui non si è mai spostato da Firenze, ma si è scoperto pure che nessuno dei suoi ministri appartiene alla generazione Erasmus, ad eccezione, ad eccezione dell'unica, della più preparata, di quella che conosce le lingue. Ha perfino fatto una tesi di laurea sui rapporti tra politica e Islam. Sarei ben curioso di incontrare il ministro Mogherini. Ha fatto l'Erasmus? Ha fatto l'Erasmus. Adesso mi spiego tutto. Adesso non ci spieghiamo l'unica. Tutto. E io vi voglio far sentire ancora una volta l'inno della generazione Erasmus. Vai. Ed è questo. Però se la vedete la faccia del ministro Mogherini. Mamma mia, che ma per fortuna che c'è stato l'Erasmus, bolle. Pensavo vai, dicessi vai. Per fortuna che se ne va in Europa. Dalla Corea? La France. Vive liberté, égalité, fraternité. Poi un po' di problemini. Multone per la BNP Paribas. Intanto il caro amico Hollande non è riuscito, il presidentissimo, a fermare le forze punitive di Obama. E dunque multa da 8.9 billion di dollari, ovviamente, per la banca francese che faceva delle operazioni con la moneta americana proibite, con l'Iran, il Sudan e così via. E questa è una botta pesante. Ma quello che sta succedendo in queste ore è incredibile, perché noi abbiamo Sarkozy in stato di fermo, prima volta che succede in questa forma, quindi un ex presidente che viene fermato dalla magistratura, interrogato perché avrebbe promesso a un magistrato un posto di prestigio in cambio di rivelazioni sulla sua carriera. Giovanni, Ouais. Beau. Boum, l'astre du jour fait boum. Tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh. La bichose a bois fait mè. Professor Doglio, buongiorno. Buongiorno, visto che oggi ci salutiamo con lei per questa stagione, ha qualche numero finale di Economia dei Media da lasciarci? Purtroppo non sono bellissimi, mi tocca sempre fare questa parte maledizione. Ma le viene benissimo. Gli unici numeri sono quelli sul mercato pubblicitario raccolti da Nielsen per il primo quadrimestre. E purtroppo è una doccia gelata dopo i timidi segnali positivi di gennaio-febbraio. Gli investimenti calano ancora, ad aprile quasi meno 4% la TV, quasi meno 10% la radio, meno 13% la stampa. Complessivamente il calo nel primo quadrimestre del 14% è del 3,6%. Quindi temo che non ci sia una ripresa in vista, almeno per l'industria della pubblicità. E purtroppo siamo in controtendenza con il resto d'Europa e c'è il rischio che in autunno il mercato peggiori ancora. La verità è che bisogna quindi abituarsi niente a un ripresa. Mercato pubblicitario più piccolo, niente ripresa almeno nel 2014 e soprattutto bisogna dimenticarsi i valori in voga fino al 2007, quei 10 miliardi che ci mettevano in linea con gli altri grandi paesi europei. Il mercato sembra stabilizzarsi poco sotto o poco sopra gli attuali 7 miliardi, detto in altri termini nel giro di 6 anni siamo tornati indietro di 14. Ma speriamo in un rimbalzo tecnico del 2015. Ecco, questi numeri sono brutti. Cosa ci aspetta in autunno? Per quel che riguarda la pubblicità abbiamo già detto, però c'è un gran movimento tra le imprese televisive e quindi non dico che in autunno vedremo già dei risultati, ma certamente c'è in vista una possibile nuova RAI, c'è un possibile nuovo partner strategico per Mediaset, c'è un possibile nuovo profilo europeo per Sky. Insomma, qualcosa si muove, diciamo. Forse avremo non più una Rai ma due, una tutta commerciale, pagata da quei famosi 600-700 milioni di pubblicità che raccoglie, che potrebbe, come dire, configurare solo Rai 1, una pagata dai 1700 milioni di canone, composta da un mix di reti generaliste Rai 2, Rai 3, più i quattro canali tematici nati dalla ristrutturazione. Non sono d'accordo con lei, professore, su questo punto. Non penso che finirà così. Più informazioni di me. Non penso che finirà così. Penso che sì. Vabbè, insomma, vedremo nei prossimi mesi. Comunque, questa è una delle ipotesi sul tavolo. Ecco, in Europa invece cosa accadrà? Che movimenti, ci sono in Europa? La cosa più interessante nel settore della pay TV è questa nuova ipotesi di creare una Sky europea. Murdoch non demorde. Ha scelto le banche, che sono Barclays e JP Morgan, che faranno da advisor a questo progetto di fusione delle sue pay TV in Europa, che è un affare da 10 miliardi di euro, che metterebbe Sky Italia, l'unica controllata al 100%, e Sky Germania, controllata al 55%, sotto l'inglese BSkyB, dove la Century Fox ha 39%. Un'operazione interessante, ma piena di punti interrogativi, sia finanziari che amministrativi. E almeno fino al 2018 i diritti, per esempio quelli sportivi, sono su base nazionale. Poi c'è una novità che staremo a vedere, perché la signora Diana Coyle, che in questo momento fa la funzione del presidente del BBC Trust al posto di Lord Paton, che si è dovuto ritirare, ha cominciato a parlare di una cosa veramente sorprendente, cioè ha cominciato a dire ve lo faremo sapere meglio a luglio quando esce un documento complessivo del Trust su tutta l'offerta, ma non sarebbe male che BBC cominciasse a sperimentare l'idea di un'offerta on demand a pagamento. E questa sarebbe una grande novità. Una grande novità, per un'introduzione. Una volta, sarebbe la Francia a dare l'esempio, perché in Francia France Television il suo piccolo servizio di pay on demand lo ha portato avanti, qualche soldino comincia a portarlo a casa. Grazie professore, grazie professore. Renzo Arbore, Gerry Scotti, Maurizio Costanzo, sono alcune delle voci che sentiremo nella puntata di oggi di Mix 24, della storia di Mix 24 dedicata appunto al ricordo di Corrado. A chiudere, Marina Milone intervista Dario Ballantini, che col conduttore ha debuttato.